Parliamo di XM. Come sapete, ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo molto a cuore la causa appunto del centro sociale in via Fioravanti 24, anche per il fatto che ormai è rimasto forse l'unico, comunque uno dei pochissimi spazi di libertà rimasti in città. Lo scorso 30 giugno, come sappiamo, c'è stata una grande manifestazione per dire no allo sgombero di XM. Lunedì scorso c'è stato un presidio in Piazza Maggiore con un'azione anche all'interno del consiglio comunale. Oggi, fra due ore più o meno, si replica. XM richiama tutte e tutti in piazza, anche perché sarà un appuntamento importante quello del consiglio comunale, per una delibera su cui sarà chiamato ad esprimersi. Per farci raccontare tutto, noi siamo al telefono con Andrea di XM24, che saluto. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, prima cosa ti chiedo ovviamente le ragioni di questo nuovo presidio per oggi. Oggi siamo in piazza appunto sotto il Consiglio Comunale perché in approvazione c'è una delibera, l'adeguamento alla variazione di bilancio, che al suo interno, tra i tanti interventi, prevede il finanziamento di 2 milioni al progetto di co-housing che l'amministrazione vorrebbe nell'immobile di via Fioravanti 24. Un progetto di co-housing che è stato tanto sbandierato per titolo, insomma, dall'amministrazione, ma che effettivamente non è mai stato presentato o commentato. Di questo abbiamo voluto parlare un po' noi, smascherando un po' quello che è per ora un progetto preliminare, quindi ben lungi dall'essere realizzato veramente, visto che sono previsti molti altri passaggi tecnici prima dell'inizio di qualsiasi cantiere, anche in caso dovessero realizzare questo co-housing. E infatti questo specifica la stai facendo, immagino, perché una delle argomentazioni o delle scuse, insomma, dell'amministrazione è che il giorno dopo un eventuale sgombero sarebbero partiti i cantieri. Beh, non è così, insomma. L'amministrazione insiste sul fatto che è necessario liberare, come dicono loro, lo stabile in via Fioravanti 24, perché sembra ci siano gli operai in attesa alle porte per dare via a questo progetto. Ecco, non è vero, questa è una delle tante menzogne, mancate verità che vengono raccontate sulle intenzioni dell'amministrazione, nel senso che stanno approvando adesso una variazione di bilancio per poi, sulla base di un preliminare che, insomma, vi invitiamo a guardare, a commentare voi stessi, però poi questo preliminare dovrebbe vedere un progetto definitivo, un'approvazione della soprintendenza e poi finalmente eventualmente inizierebbero i lavori. Quindi ecco, quel che si prevede è quel che stiamo giustificando, l'urgenza di uno sgombero, la scadenza è giovedì, per poi vedere quello spazio vuoto per altri mesi, almeno si parla di almeno 8-9 mesi prima di ogni possibile intervento. Certo, ecco, una domanda anche sul tipo di realizzazione di infrastruttura che vuole realizzare il comune, perché insomma si è partiti dalla famosa caserma dei carabinieri passando per centri culturali non meglio precisati, ora si è arrivato al co-housing, che però non è edilizia popolare. Questo forse vale la pena sottolinearlo, perché sembra che XM24 sottragga case a persone che non ce l'hanno. No, questo è chiaro che è un'arma retorica messa in campo da questa amministrazione, che sa benissimo che con questa insistenza, questa urgenza di sgombero su XM24 sta di fatto procedendo alla cancellazione di un'esperienza di autogestione che da 17 anni anima un quartiere come la Bolognina e che in città è vista come un bene di tutte e tutti. L'abbiamo notato, ce ne fosse bisogno, anche contando le 10.000 persone scese in piazza il 29 giugno. Quel che vogliono fare è mettere in contrapposizione il diritto all'abitare, assolutamente indiscutibile, con le esperienze autogestite. Viene da ridere quando il sindaco Merola rinfaccia all'esperienza di XM24 un'ipotetica privatizzazione degli spazi, mentre appunto in questa esperienza passano decine di laboratori, migliaia di persone ogni settimana, e il progetto previsto è quello di un co-housing che potrebbe alloggiare, se non sbaglio, 43 persone, che senza dubbio 43 persone che avrebbero bisogno di un'abitazione, però ecco, 43 persone fronte alle migliaia di persone che attraversano lo spazio, mi sembra ridicolo rinfacciare XM una privatizzazione. Oltretutto in quell'immobile sono previste caratteri, cioè attività di carattere socioculturale, anche solo da destinazione d'uso, e quel che fa l'amministrazione è giustificare la presenza di di attività di questo tipo mettendo, si può vedere nel progetto, conteggiando nella quota di spazi riservati a attività culturali, sociali, addirittura i corridoi del co-housing, ecco, quindi per rientrare all'interno delle percentuali della stessa delibera che si sono approvati. Quindi si tratta di un tentativo di social washing, addirittura è stato più volte affiancato, comparato, portato ad esempio un altro esempio di co-housing in città, quello di Porto 15, che esso stesso si smarca dal tentativo di utilizzare, ecco, queste esperienze come giustificazione allo sgombero di realtà sociali autogestite. Certo, ecco, ci sono un altro paio di punti che vorrei chiarire con te, perché insomma gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko sanno che seguiamo questa vicenda da tempo, ma ieri siamo un po' tutti trasaliti leggendo questo articolo pubblicato dall'edizione bolognese di Repubblica, in cui si parlava di un magazzino di 300 metri quadri che vi avrebbero offerto e che avete rifiutato. Ecco, allora noi siamo andati anche in consiglio comunale, appunto, anche la settimana scorsa, per ribadire un concetto semplice: manca la volontà politica di preservare l'esperienza di XM24. Ora, quella che viene descritta ieri sera, cioè ieri nell'edizione di Repubblica, è un'offerta che a XM non è mai stata fatta. A XM24 è stato proposto un magazzino per immagazzinare proprio le attrezzature, è stato fatto in questura, ok, dal questore, che in questa fase si è posto anche a mediatore di un'amministrazione che all'ultimo incontro neppure si è presentata, e quindi si è fatto portavoce di questo appunto magazzino in cui mettere le attività e sospenderle senza in realtà nessun impegno futuro da parte dell'amministrazione, senza una prospettiva per le attività di XM. È evidente che i laboratori non possono in alcun modo avvenire all'interno di un magazzino, e quindi ecco, è la prima volta che leggiamo di un capannone di 300 metri quadri, e questo l'abbiamo letto per la prima volta su Repubblica anche noi ieri. Quindi di fatto parlano di una trattativa che non c'è stata nella sostanza. Certo. Ecco, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è relativa alla soprintendenza sulla tutela delle opere di street art. Già in passato, come dire, nel precedente, diciamo, attacco, quando c'era la questione della rotonda, come dire, anche la street art che i muri di XM ospitano era servita anche per scongiurare una soluzione appunto con i manganelli. In questo caso, secondo te, può contribuire? Ma in questo caso quello che vediamo è proprio l'approccio di questa amministrazione alle controculture, alle realtà dal basso che animano Bologna, ovvero sgomberarle, salvo poi farsi vanto magari di, in questo caso, la street art sui muri di XM. È evidente che non ha nessun significato mantenere queste opere, che nascono perché c'è una comunità dietro che le ha volute, che dà significato a quelle opere. Esistono per un motivo e non hanno senso al di fuori del contesto in cui si ritrovano. È pura mercificazione di quello che l'amministrazione con l'altra mano va a sgomberare. Un sindaco che dice che non interessa, anche se fosse avvenuto un dialogo con XM24, non è rilevante, non è interessante, dall'altra parte tenta questa operazione di turistificazione del quartiere mantenendo le opere di street art. È assolutamente una mercificazione di quello che sono le realtà dal basso. Certo, allora io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento alle 13 in Piazza Maggiore, giusto? Alle 13 saremo in Piazza Maggiore, sotto il Consiglio Comunale, appunto per contestare e portare attenzione su questa variazione in bilancio, e poi più tardi saremo in XM, dove avranno dei reading lato piscina, visto che la nostra resistenza si fa sempre più calda in quest'estate, e continuano le attività. Ci saremo domani sera, giovedì, senza dubbio giovedì 25, quando è prevista la scadenza dell'ordinanza di sgombero. Sarà un giovedì particolarmente popolato in XM, vi invitiamo tutte e tutte. Certo, grazie mille. Grazie a te.